attenzione Gianni. Ehi, ehi, sta parlando. È troppo basso, vai. Boh, aspetta, lo chiedo. Che sto sentendo? Senti corto, sembra che è lungo. A me basta che ascolti. No, ne, mamma mia, gara. Sta parlando con Claudio, e che Claudio è? Boh. Attenzione capi 2, attenzione Gianni, Gianni, attenzione capi 2, Muros, mi copi? Manuè. Ehi. E io come ti arrivo? E tu io con la scala. E adesso? Ore 60. Anzi la 60. C'è la minima portezza, ore 60. La massima portezza, boh. Ciao Gianni, Torino Kawasaki da Sassari, mi copi? No, io non ascolto, mi dispiace, cara. Ma niente, guarda, tra un po' mi faccio un pisolino, ho sempre un po' di dolori. Comunque, ciao Claudio, se mi ascolti pio pio. Salutami la gricchellona. Niente, mi dispiace, non lo copio. Senti, stasera già lo sentivo. E comunque Gianni, tu sei anche più basso il segnale, non ho capito perché. C'è sempre un accello. Aspetta che ti mando avanti il ginco se lo senti. Manuele, avanti. Manuele. Ehi, non lo sento io. Ottori, non lo sento. Tutto questo è quello M. Io non so come mai sta arrivando così basso. Comunque, ciao Gianni, ma... Ben ascoltato, non te lo posso dire perché non ti sento. A me senti rotto, arriva. Avanti già, copiato hai. Sì, ti ascolto. E cappa. E a me spiace che non lo senta Claudio, vabbè, non si può pretendere con portatile che non te la telescopica. Manuele, allora, Gianni sta usando un SK, è liscio liscio, quindi ovvio, arriva proprio il bassino, capito? Quindi, comunque ti copio a te. Avanti Manuele. Ok, va bene così allora. Ah, lo stavo usando dalla stazione fissa. Beh, non so se è stazione fissa, comunque sto usando un SK, mi ha detto. Gianni, ma sì, stazione fissa, sì. Ehi, capo, dai, io mi faccio un pisolino. Sono un po' stanco e ho dei dolori, vai. Così. Ok, già, dai, fatti sentire più spesso. Salutami a Claudio, è la tua, la tua 50. È la tua grichellina, vai. Statevi bene, buon proseguo. Alle prossime, un rettangolo da parte mia, causa carico pupille. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo, te. Ehi, ciao, ciao. Altre cose non me le hanno scritte, no, vuol dire che... Non me le per il controllo, si dice sì, va benissimo, non c'è problema. Vabbè, vediamo quando arriva, fammi sentire l'altro microfono, dai. Sassiru, guarda come va. E né più né meno come l'altro. Più o meno sono tutte e due uguali. E sono tutte e due amplificate. Devo aprire l'L5 questa radio perché non l'ho mai aperta. Non so, se la vuoi toccare, toccala. Io l'avrei lasciata così come voi, non lo so. Radio 5 sempre, però molto chiara ma normale, microfono normalissimo. Era, scusa, non mi decido di abbottonare la luce. Se riesci a farlo, fatelo, ma io sono sempre il parere che le radio vanno lasciate come devono essere. Ci vuole un microfono buono, amplificato, e poi lo provi. Adesso se questo ti manda il tale più 3, magari lo provi lì e vedi un po' se va bene lì. No, tale più 3 dove mettono le garage. Ehi, no, io sono arrivato. Tale più 3 al Galaxy, MV più 5 agli altri radio, e adesso me ne deve arrivare un altro di tale più 3, però. No, a 40 euro sempre, nuovo, dentro la scatola. Uguale a questo, più 3B nero, nuovo, 70 euro lo stesso, da Viareggio, un altro radioamatore che usava con 140, gli ho detto, guarda, se mi fa la cortesia di farmelo a 4, attacco Midland, mi ha detto, ah, ce l'ho io una RAN 48, te lo faccio allora per la RAN 48, perfetto. Te lo manda qui. E certo che me lo manda, viaggi a pagato. Non hai troppo di questi tarle più 3, dammene una a me. No, già, tu devo fare cose fatte bene. Un tarle più 3 deve andare al DAC e non si discute. E questo rimane qua sul Galaxy, vita naturale durante, come ti si dice, per eterno. Non te lo sei domandato come mai sto parlando col 3009 che ce l'ho fatto attaccare? Me lo domando, hai cambiato piede. Esatto, gli ho messo uno di che piede vecchi che c'avevo, l'ho messo, l'ho pulito col CVC prima, l'ho tutto pulito bene, poi gli ho messo quello e va la grana. Però io se fossi in te sarei andato da Fusaro, glielo avrei detto, capito? Io non li ho comprato ancora e non ne compro, ho già contattato quel mio amico, mi ha detto appena, perché era in fiera, non so che fiera stavo facendo, ma ha detto appena termino la fiera che vado al laboratorio ti faccio un pacchettino e te li spedisco, non so quante ne ho, mi ha detto, di quelli buoni, mi ha detto quelli che ho ti mando, adesso vediamo. Allora, a me mi stavano accennando che adesso gli apparati nuovi che stanno facendo la filettatura è diversa, perché ne ho parlato con un amico e mi ha detto che anche nel President gli faceva la stessa cosa lui, questi nuovi. Questi usciti adesso tu hai comprato da poco, può essere già, io non ti posso rispondere perché ho baracchi di vintage, il Galaxy è sempre una radio, non vintage ma quasi, e il K, io ho sempre usato PL anche ultimamente, sì, dalla T230 allora avevo il 440, i PL erano nuovi comprati da Fusaro, quindi non capisco, vabbè. Secondo me è un PL o qualche partita di PL andati un po' a culo di scimmia, comunque è impossibile Gianni, il 259 la filettatura è quella, non si discute, è eterna, è secoli che abbiamo quella filettatura lì, qualsiasi PL tu compri va a filettarsi con qualsiasi tipo di radio, mi sembra una grandissima stronzata questa. Due ne ho provato Claudio, due, non uno, no, due. E cosa eccetera. Quanti ne hai comprato? 8 su 8, 3, 4, 5 sono capito, malandati, magari uno va bene. Impossibile Gianni, guarda, te lo dico sicuramente con certezza, e penso a chiunque chiedi, perché il maschio e femmina delle radio dei cavi sono standard per qualsiasi tipo di radio. È impossibile che abbiamo fatto una radio tipo 3009 o qualsiasi tipo di radio nuova che sia adesso con una frettatura diversa, cioè tutti i PL che ci sono in circolazione, quindi cosa facciamo? No, non è così. Già, tu hai preso a Fusaro, è arrivata una partita di merda, scusando il termine, e quindi bisogna andare e dirglielo. Io non ne ho comprato, perciò non posso andare a lamentarmi, però io sarei andato con quel PL e gli avrei detto: ascolta, ti stacchi la radio, ti porti la radio, guarda, la radio non avvitano questi PL, spiegamolo tu il perché. Io ne ho comprato la bellezza di 8, non di... Aspetta, appunto, su 8 te ne ha dato 4 o 5 che non vanno bene, capito? Se non te l'ha dato tutte e 8, non so cosa dirti, Gianni, è impossibile. Se no, su quegli 8, 2 ne hai provato, 2 sono malandati, hanno sbagliato la filettatura. Può essere una cosa fattibilissima, ma non mi dire che hanno fatto le radio che stanno uscendo adesso con 259 femmina diverso dagli altri, è impossibile. Altrimenti le aziende dovrebbero cambiare tutti i PL che ci sono in commercio, capito? Assolutamente, non è così già. Vai e glielo dici, perché quella partita che ti ha dato è una partita difettosa. Scusa un attimo che mi sta chiamando Claudio, avanti. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, e meglio lo sai che io come torre di controllo ti ascolto anche col portatile, non ce n'è problema. Dove sei facendo asparagi? Ciao Claudio, saluta mamma, ci aggiorniamo stasera. Gianni Piorume ti saluta, Claudio Chioro, che in campagna sta facendo asparagi col portatile. Capito già, così è, per me è così, non ci sono altre alternative. È impossibile quello che hai detto, è quello che ti hanno detto, è impossibile. Non esiste una cosa del genere. Da una vita che l'attacco 259, la filettatura è quella per qualsiasi tipo di radio, altrimenti le aziende dovrebbero ricambiare tutti i PL. Quella è una partita del cacchio. Claudio, idem, a me non è mai successa una cosa del genere, sempre usato i PL tranquillamente, fatto comunque, quelli col riduttore vanno bene, quelli che hanno il riduttore che si avvita, quelli che avvitano il filo no. Già, io ti consiglio una cosa, prendi PL, vai e glieli riporti, ok, ti porti la radio appresso, senza nuda, te la porti appresso e dici tu avvitami questi PL in questa radio, i PL che ho comprato qua. Quanto ne avete? 30, prendili tutte e 30 e proviamo. Se tutte e 30 non avvitano, stai pur certo che quella partita che gli hanno mandato è una partita di merda. Così è già, è assurdo, cioè fai uno più uno, è assurda una cosa del genere. E come fai a dire che le radio stanno uscendo adesso, c'hanno 259 femmina diverso, ma non esiste, ma da nessuna parte esiste Gianni, dai, assolutamente. Sarebbe una rivoluzione totale, perché tutte le aziende che hanno in casa già i PL vecchi che non hanno venduto le devono buttare via, ma non esiste. No, Cla, non ci siamo capiti. I baracchini nuovi che stanno facendo adesso hanno una architettura diversa da quella che avevano prima. Io ti sto rispondendo, forse tu non sei attento, io ti sto dicendo che è assurdo, perché il 259 femmina, quello che è attaccato alle radio, deve essere a filettatura uguale ai PL che stanno vendendo, perché altrimenti le aziende devono buttare via centinaia e centinaia di euro di PL, perché allora le radio che stanno uscendo adesso non ci sono i PL, sì, io ne ho 200 nella mia ditta, io vendo elettronica, nella mia ditta ho 200 PL, dei modello vecchio le devo buttare via perché non avvitano nelle radio nuove, ma io già, lascia perdere, non è così. In ogni caso, Cla, non avvitava, dai, c'è poco da fare, ci stiamo girando attorno, ma non avvitava e rischiavo che mi spanasse anche la filettatura del baracchino. ma c'è una vita, qualche nuova vita, se io non ti sto dicendo sei bugiardo, per carità, me ne guarderei bene, però non dire che o che ti hanno letto, che lo dici tu, che le radio stanno uscendo adesso hanno una filettatura diversa, è una filettatura standard per tutte le radio, ma da che mondo è mondo, non esiste proprio, capito? Assolutamente, quei piedi tu devi andare e li devi riportare, le devi dire quello che è successo, ti porti, se fossi io, se ero io, portavo il baracchino, dico quanti ne hai in casa di questi PL? 30, questo è il baracchino, avvitami questi 30 PL alla radio, se 20 avvitami, 10 no, ecco quei 10 buttali via perché non servono a niente. Sì, vabbè, c'è la Bidellucci, no, non devo stare a portare, a fare, c'è la Bidellucci, li tengo quelli lì, tanto per gli altri baracchini vanno bene solo per i 3.900. Vabbè, è giusto per fare capire, perché se glielo dici tu che li hai comprati, magari si fa la prova e non li vende ad altre persone, a pagare 3 euro l'uno e a prendere per il culo la gente, capito? E sta succedendo spesso questa cosa a Fusaro, è la prima occasione, Antonello, glielo dico, così è successo con i microfoni, adesso sta succedendo con i PL, vai e fai l'ordine e non te ne ordina, non è serietà questa, capito? Mi dispiace, perché quando c'era Vittorio Fusaro non funzionava così, l'azienda era solida e soprattutto era onesta, qua non sta più funzionando bene. Sì, claro, ma ciò che dico io è il fatto che praticamente in certi apparati funziona, quindi non sono i PL, è la filettatura dell'apparecchio che è diversa dalle altre, perché ti dico che un amico l'ha provato sul preside e gli ha fatto lo stesso difetto, ho detto già c'hai tutte le ragioni, perché l'ha fatto anche a me. Non so cosa dirti, allora è sbagliata la filettatura del 3009, cosa vuoi ti dica? Io non ci credo a questa cosa, già è 40 anni che faccio radio, quindi non ho mai avuto di questi problemi, né con Radio Nuova né con Radio Vecchia, PL sono PL e si chiamano PL 259, perché c'è una sigla che è quella, basta, sia maschio che femmina, in Barilotti sono sempre 259, entrambi i due lati, quindi io non ci credo, per me quelli che hai comprato da Fusaro sono fasulli, nel senso che gli hanno dato una partita con qualche PL, non dico tutte quante ne ho ordinato, 80, 100, non lo so, però in mezzo ci hanno messo dei PL difettosi, chiamiamoli così, difettosi, capito? Perché il fatto che il 259 che tu hai messo alla radio, ok, il 259 che tu hai messo al 3009 a Viti, e quel 259 a Vita su tutte le radio, secondo te che cosa, di cosa stiamo parlando, Gianni? Sono i PL difettosi a futtidini, è come ti dico io, poi te lo dimostro quando vuoi, non c'è problema. Capace che se lo porto a te a Vita tutte le radio, capito? Se lo porto a te magari a Vita tutte le radio, claro. Perché non ho PL di quelli che hai comprato tu da Fusaro, gli ultimi che sono arrivati, quelli in battilite marrone, non li aveva, gliel'ho detto io di portarli, capito? Io non ne ho di quei PL, io ho tutti i PL già di quelli che avevo ordinati da fuori, ne ho altri 4 che me li sono tenuti di riserva, sempre ordinati da fuori, io da Fusaro non ne ho comprato, assolutamente. Ma cosa hai preso? Gli Anfenol? Io sì, io c'ho tutto Anfenol, sia esternamente che internamente, e ho già buono questa gaggata che vi assassari. Allora, io te l'ho detto ieri, non so se tu c'eri o eri al telefono, io l'estate scorsa, ok, ho ordinato una bustina, mi hanno messo 5 NPL, 5 BNC PL, 5 Barilotti, 10 PL normali, poi che cosa c'era? Ah, 2 o 3 Barilotti NN. Proprio per farmi la scorta, perché io quelli li usavo con le antenne che avevo, eccetera. Non sai quanto ho speso, compreso il trasporto? 15 più 5 di trasporto. E ne ho ancora altre 4. Cazzo, se vai a prendere costano 3,50 l'uno quei PL, non è che costano 10. Ma infatti, ma siccome io so dove andare a comprarli, perciò non ne ho problemi. Chiamo e me li faccio mandare. Io con 15 euro mi faccio la scorta anche da venderne, capito? Io non glielo compro a Fusaro, un PL del cacchio a 3 euro, non glielo compro, capito? Perché io li ho pagati a 2 euro, a 2 euro quelli Afanol e quelli normali a 1 euro, quindi lascia perdere già. Chiudiamo un discorso, non mi interessa, peggio per lui, io non gliene compro di mondezza. No, per io non ho comprato 8, ne ho comprato 4 prima e 4 dopo, perché abbiamo fatto l'ispezione di tutti i nuovi, è normale che ci volevano, però cazzo, cioè, devono anche andare bene queste cose, non è che possono andare come vogliono loro. Lui ti risponde, vuol dire che c'è qualcuno che hanno sbagliato la filettatura, o basta ci sia la filettatura storta, qualche bavatura nella filettatura non ha vita. Capito Gianni, o è più corta, no, capito, tutti, se tu guardi le ghiere dei PL, la filettatura parte dall'inizio, proprio il primo giro è, come tu appoggi il PL già puoi girare e lui ha vita, se in quel PL che non ha vita, no, tu lo confronti con un altro che ha vita e manca un giro di filettatura, è chiaro che non ti ha vita il PL, quindi sono dei PL difettosi dalla fabbrica, lui ti può dire ma io non c'entro niente, va bene? Allora questi sono quelli difettosi, dammene due buoni, così funziona in casa mia, no? Chi lo sa se sono i PL o se l'apparato che hanno cambiato la filettatura dell'apparato, perché i vecchi avvitano, ma cioè non fai manco forza, li avviti tranquillamente, quelli invece uno che devi fare forza e poi vanno a vuoto, dopo che fanno forza siedi, tac, rischi di rovinare la filettatura, capito, dell'apparecchio. Già, ma tu non mi vuoi capire a me, ma quella radio da quando ce l'hai tu? Non ho capito. Quanti PL c'hai a disposizione? Quanti spezzoni c'hai? Tu li provi tutti, gli spezzoni entrano tutti. Quelli che non entrano quali sono? Due di quelli che hai comprato a Fusaro. È matematica, no? Scusa. Non è che c'è molto da fare da discutere. Se tutti gli altri PL che tu hai in casa avvitano a quella radio, come mai quelli che hai comprato da Fusaro non avvitano? Cosa entra la radio? Perché gli altri avvitano su, gli altri apparecchi avvitano, quelli di Fusaro, e su solo sul 4009 che non avvita. Ma due hai detto, due, tu prima di attaccarti i cosi, ok, prima di tutte 8, dove sono questi PL? Scusa se ti faccio la domanda, dove li hai messi questi 8 PL? Anche se li hai saldati e c'hai degli spezzoni, staccati gli spezzoni e provati tutte 8 PL, tutte 8 però, non 2, tutte 8 PL nella radio, se tutte 8 non avvitano, allora ci vuole un punto di domanda, ok, ma se di quegli 8, 6 avvitano e 2 no, tu cosa rispondi? Che sono i PL che sono difettosi, quello sì, ma io ho già fatto quella prova che hai detto tu, non avvita nessun PL, poi per evitare di spalare la filettatura ho mollato, perché sennò poi va a finire ci butti il baracchino. Quindi tutte 8 non avvitano? No. La prima cosa che sento, non lo so, non ti posso rispondere, guarda, perché che abbiamo fatto un baracchino con la filettatura diversa, tu vai a comprare i PL che sono in commercio e non ti avvitano, non ho capito. Quelli sono di ultima generazione, quei PL che hai comprato, perché di prima generazione sono quelli bianchi che non servono a niente, quelli marroni già sono superiori, quindi sono usciti dopo, non capisco come facciano a avvitare in una radio normalissima. Non so, vabbè, già, non so cosa dirti, non so cosa dirti. Allora, io li prendo sempre in macchinite marrone, solo che questi che ho preso questa volta sono quelli che si avvita il cavo, la massa, si avvita invece quelli che prendevo prima, hanno il riduttore, entri il filo dentro, lo porti, lo pieghi e poi avviti di modo che faccia massa. Quelli vanno bene, gli altri no. Oh, mamma mia, cioè sta vendendo per il, ecco perché, per il RG58, quindi io non ne uso di quelli. Adesso pensavo tu avessi il cavo grosso, figurati la testa mia dov'è. Ah, giù compreso, sta vendendo ancora i PL che si avvitano a casa, non si vergogna, ma non si vergogna, per carità, no, quelli che ho comprato io marroni sono quelli con riduttore e li puoi usare sia per il cavo grosso che per il cavo fine, quelli sono molto, molto meglio di quelli. Ma adesso la radio meglio la senti? Sì, va bene. Vabbè, adesso c'è l'altro apparecchio. L'altro apparecchio quale? Quello, l'ultimo? e cobra. Non sentivo il bip. Forse non è inserito, non lo so. Guarda ora. Ehi, secondo pulsante in basso. A fianco al power. Lo conosco a memoria quella radio. Sì, adesso c'è il bip. No, va bene, la radio che stavi usando ieri, che ti ho detto che andava bene. Ieri ho messo anche il coso, l'Eco Master Plus, e mi avete detto che va molto meglio quello lì. Però il problema è che il Master Plus deve sposarsi col Galaxy, sin quando non trovo un microfono che vada meglio di quello. Allora lascio il Master Plus, poi quando arriva l'MV5 vediamo lì, lo proviamo sul Cobra e anche sul Galaxy. Guarda, il Cobra e il Galaxy hanno le stesse connessioni, quindi lo puoi provare dove vuoi. Stanno il più 3, si abbina molto meglio del Master Plus al Galaxy, sicuramente. Vedi come esce, quindi io ce l'ho a 2. Mi hanno detto che è anche troppo forte, però non lo abbasso, va bene così, a me piace così. Al Cobra si abbina anche bene il Saletta, quindi puoi vedere tu l'abbinamento da fare. Questo non è male, sicuramente rimane meno corposa rispetto al Saletta, ma comunque abbastanza forte, abbastanza amplificata e chiara. Vabbè. Il Saletta è più forte con il microfono. Sì, il Saletta è più forte, sì. Ma nel Galaxy questo qua non piace, boh. Mi hanno detto che è troppo fida la modulazione, è brutta. Vabbè, è a piacere, ognuno dice la sua, va bene così, però il Galaxy ha bisogno di un bel microfono da tavolo. È il microfono che va bene, sono gli MB+5, perché vanno benissimo, io l'ho usato e va bene, e poi il top è il TAM+3. Il TAM+3, capito? Quindi io lascio questo, poi l'altro che arriva lo metto al DAC. E non li do più. Ognuno ha il suo microfono e sono più che soddisfatto. Eia. Ok, aspetta un secondo che mi prendo gli occhiali. Eia. Chi è? Guarda, ci ho parlato io da qua con tuo figlio, quindi arriva Santiago 4 qua da me. Solo da me però, eh. Eia, ciao Gianni, ben sentito, non potevo risponderti che stavo facendo una cosa. Ero inchinato, stavo prendendo roba che me l'ha caduta. Va bene, già, ti sento forte, ti sento bene, tranquillo. Tu come mi ascolti? Qui ti sta chiamando Claudio. Eia, dove sei Claudio? Eia, va bene, dai, riprendi Gianni. Eia, quindi 9:15 ti sta arrivando lì, Gianni. Eia, scusa che ho il telefono, dai, KK. Va bene, io quanto ti arrivo già, così, con la potenza del Galaxy? Dimmi così come ti arrivo, Capri 2. Allora guarda, così è normale, e così è attaccato, va. Ah, buon trabacco, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao, alle prossime. E anche tu qua sei fortissimo, sei 9:20. 9:20, ok. Cos'era quella, la potenza della minima e la massima del Cobra? K. Vai da 9:20 a 9:30. Dimmi Claudio. Oh, ciao Lima, da Ozieri, buonasera, ben ascoltato, non te lo posso dire perché sei bassissimo stasera, eh. Sei Santiago 3, di solito mi arrivi 5, 6, come mai? Ah, stai usando un apparato HB23, insomma, ormai siamo passati tutte le vecchie glorie, quella c'ha pochi watt, mi sembra 3-4 watt, però riesco ad ascoltarti, segnale 3 e radio proprio bassina, lo senti Ozieri già? No, ragazzi. Dai, continuate che vado a mettere a posto la roba. Eia. Va bene Lima, va bene, dai, cambia radio, sennò faccio difficoltà ad ascoltarti. Mi devo assentare un secondo, arrivo subito. Eccomi qua. Oh, ma che giù video è benissimo. Oh. E da ora di finire. Perché non ci volevi? Ah, ci volevamo, ca. Ma tu sei già. Eia, io sono, dai. Sto uscendo col Cobra. E mi pare a Metallica, ca. Sì, questo è il Cobra, dai. se voglio ricavo il microfono, non c'è problema. Era una specie di metallo, una radio metallica di telefono, capo, una cosa del genere. Non è piena, non è bella. Sì, perché questa qua ha la valvola ceramica, capito? La valvola, la, cosa ti volevo dire, la capsula ceramica. Ho capito, però cosa? E vabbè, dai, già glielo metto il microfono, mi sta arrivando il tarne più 3. Sia, va bene. Io mi sa che l'altro giorno invece col tarne più 3 si è tenuto alla divisione di guida, a fianco. Vieni a chiederlo su internet, se me lo manda, perché è già finito 3 giorni che me lo deve spedire, ancora non me ne ha spedito. Ah beh, discreto. Oh, e beh, sparvi. Com'è? Rientrando? No, sono sceso giù, mi... Era fatto un pacco, insomma, cosa si è adesso la prova, cos'è? Un momento, ma cosa giù di nato, bimbo? Ogni tanto bisogna ordinare qualcosa. Adesso ho rotto un piatto di cosa cacchio io, della paio, ma... Su internet devo decidere di recuperarlo, se ce la faccio. Sì, boh, questo... ce l'ho, apro un pacco anche un po'. Se non gli arrivi dalla schietta al radio, aspetta, lo apro già, aspetta. Riprendi Gianni Dischetto. Eia, niente, ho smantellato tutto la fuoristrada che l'ho portato a verniciare. E da lui, ha detto, però non mi toccare il buco dell'antenna, ha giudito, mi vernicia tutto e lascia il buco centrale. Ah, beh, normale, dai. Riprendi il piorume che guardiamo lo sia arrivato. No, piorume. Oh, allora, smontando il microfono, Gianni. Stavo rispondendo al telefono, dai. Capagava, e dove ti trovi? Esattamente, te lo dico subito. E cos'è, eh? E come a Lille Nuovo. Dove? Ai cinesi, 188, dai. Ah, cazzo. Andava. E questa cresce è meglio forse con l'altro microfono, ma per il momento l'ha dato questo qua, poi vediamo un po' di mettergli il TAN se va, se arriva. Bello era quel microfono, a te lo ricordi con 7 bande, con lo speaker, però mangiamo un bel di batterie, cazzo, per quel microfono. Ah, l'MB più 5? No, quello è ZC, cosa? No, era un microfono nero lungo, a 7 bande, 7 avevi 7 modi di modificare la voce più lo speaker. No, non ce l'ho presente. Sì, c'era... Scusa, per camuffare faceva la voce di Paperino. Quello me lo ricordo che ce ne dà uno così, però non lo so se è quello che stai dicendo. Bene, mi ascolti Gianni Dischetto. Giusto, ma tu come lo senti a Gianni Doppio Rumo? Beh, però già, cosa hai cambiato radio? Ho sempre la stessa, sempre il Cobra. No, già va bene, sempre esce bene. Ottimo per la truppa. Qua c'è una radio, lo sai, e non so manco che radio è e normalmente manco la vendo ordinata, figura di tu. Scarta. Era un microfono nero, grande, a 7 bande, cioè che aveva 7 bande equalizzatore, con l'equalizzatore era, mi capito? Lo smitter e il coso era, che cazzo era già? Questa delta, quello che sembrava rasoio da bar. No, cavolo, era grande, bello, a 7 bande. Cazzo, mi dà via Giampaolo, e ce l'aveva anche a Forotore se coso. Miau, si chiamava, se me la metteva. Vedo Ottavio. Albino, ce l'aveva. Oh, bene, non arrivava, era più forte del TAR. Questo è un TAR, non lo senti quando schiacci come fa? Ehi, ha visto il regolare della superiore, però ci mangiamo le batterie in 2 minuti. No, questo già va bene. Questo già va bene, già va bene. Aspetta, guardo cos'è questa cosa già, perché mi sembra che avevo ordinato un pezzo per una radio, non mi ricordo cos'è. Aspetta un attimo. In primavera pari bucata, boh, 20 gradi. E la gente da domenica, da Runia, vedi, ci sono 20 gradi. Tra che da vendeva? Ci vuole questo, cazzo, la vedo un bel, ti vuoi, oh. Tanto non l'ha fatto. Grazie, cosa lo sia, come non fuma. Cazzo, l'ho scaricato a punto sopra, non sono 700 metri, è sempre freddo, niente, bello, sole, come qua, uguale. Meglio, poveracci, dai, che ne hanno bisogno, con tutte le scelte nel biliardo. La verità è stato fino a sabato su Buboni, o domenica, se non sbaglio, comunque. Asciugano le campagne un po', ma non ho visto. Speriamo che asciughino, dai. Bianco, per me un secondo, già arrivo subito, riprendi il doppio rutto. Sì, a rischio dove ti trovi? Adesso un euro, fra poco tirando tutto il minifaro e che sono cremato, dalle tre le stanotte lo vicino. Ma va che pacco butto! E allora va bene Rico, a casa mia bomba. Cala, cala. Comunque ci sono già gli asparagi, quindi abbiamo fatto, la primavera è arrivata. Cappa cappa, sì sì. Gli uccelli lì stanno già facendo le uova, fatto il conto, hanno già fatto figli. Ah, no, ma la cosa, cioè, no, non esiste una cosa del genere. E là che arrivi, cazzo, febbraio, a Campella ci bloccava sempre con la neve, cazzo. Sì, ti sto dicendo che le stagioni sono cambiate, anche gli animali sentono la diversità della natura, capito? Te l'ho detto, che hanno fatto già la prima curva e stanno facendo la seconda. Ehi, a rischio, ci sentiamo Gianni, dai, andà bene, tante cose belle, buon rientro, dai, avanti Claudio, ci sei? Ehi, avanti Vino, sentiamo dopo, ciao Gianni di Schè, salutoni, abbracci, ciao ciao. Ehi, Acra, domenica se ce la faccio, sono un momento attacco la casa, dai, alla prossima, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Sono a radio alle vite, non è possibile, un courier Excalibur. Senti tu hai già. No, dimmi. Che è arrivata un'altra radio, me l'ho anche dimenticato. Un courier Excalibur. E io non ne ho arrivato questa radio. Boh, ma l'ho fatto l'ordine, giù barata, non mi so come l'ho aumentato. È arrivata adesso, poco fa. Ma non è che ci ho sbagliato. Non è che? Che hanno sbagliato loro, te l'hanno mandato, te l'hanno già mandato e te l'hanno mandato l'altro. No, no, no, già è la persona che io pucciolavo. Un libricino dove segno tutti gli ordini, tutte le spese, tutte le cose mie personali, quindi già c'è. Fatta giù di tubo. C'ho un buco, mi manca qualcosa, non riuscivo a capire. Stavo sempre facendo spostamenti, ho detto, ma no che mi manca una radio, mica arrivi. Cappa cappa. È grande quanto il... più bassa, ma come larghezza e grandezza è grande quanto il Galaxy. Un po' più bassa, è bellino. Già va bene, adesso la proviamo, ma se esce bene. Comunque Claudio, ho letto la storia di questa radio. Della Cobra? Chi l'ha scritta? Donatella Rettore. Da 30 watt in M e 100 in banda laterale. Ma il GL, GLX 200 no, è impossibile già, usa uno strumento buono, te lo posso garantire io, con la T230 della Kenwood, quella radio è la potenza minima è 30 watt modulati di brutto, la potenza massima è 80 modulati anche 100 in AM, in SSB di 170 modulati provati da me in 10 metri. Sì, e così mi dà anche a me, 30 watt in AM, io pensavo che venisse 100 in AM, capito? 30 watt in AM, ma tu c'hai il rosmetro che non te va il PEP, guarda il PEP quanto sale in potenza, da 30 va a 70-80 watt quella radio. Che era. Il rosmetro adesso ve lo faccio regolare da qualcuno. Lo dico a Fabrizio se me lo regola, è l'unica cosa che non va bene il Rosmet. Lo Smith, no il Rosmet. E adesso cazzo fa del Rosmet, lo Smith. Diglielo se te lo regola. Diglielo se te lo regola, KK, no, una bella bestiolina quella è il modello, come fa a dare pochi watt? Ha visto che c'ha sotto la pancia. Una bestiolina quella, sono pochi esemplari, molto bella esteticamente, frequenzime, c'ha tutto e completa quella radio, molto molto bella, provata io, ce l'ho tenuta un paio di mesi, quindi la conosco perfettamente, provata in banda laterale in 10 metri quando avevo le antenne, ed era non una granulata, no, DBU, è bella centrata mia anche. Me l'ha detto Massimiliano che te l'aveva l'ha fatta provare. Sì, ho fatto provare, io quando ci uso la radio Massimiliano la tengo un bel di tempo. Lui ce la fa sempre ferma, la porta qua, io l'ho collegata e la usiamo. Usiamo quella anche con il timer suo, col timer più 3. Esce molto bene anche col timer, con la radio. Però potenza non un bel, perché c'ha con la T230 faceva 30 watt di portante a potenza minima, 60-70 modulati, sembrava un K. Con la potenza alta arrivava oltre 120 watt, stai scherzando? K, va bene, dai. Già, metto a posto qua che ci butto sto cartone, sta roba, stamattina ho spedito il 430, su da questo mio amico che mi ha fatto anche il 140, allineato, a dare una rinfrescatina, una lineatina, una controllatina, se c'è da fare qualche fesseria, ho detto di farla, di mandarmela giù a posto, è 10 anni che non la revisiamo quella radio, quindi l'abbiamo spedita, se l'ho spedito lì punto, quanto ho pagato lì punti? 14,50 euro. Quando è pronta la puoi anche portare a casa. Il 430, ti rispondo come il Dacchi già. Non ce n'è soldi per comprare quella radio. Ce l'ho 10 anni, non l'ho mai venduta, era vendola. No. Ma guarda che non c'ha niente, l'ho mandata io per un mio. Per fare una revisione, dai, per darle una sistemata, una pulita internamente. E boh, capito. Io 140 l'ho già venduto. Te lo sai a chi, e mi è rimasto questo 140 che ho, che sto usando poco, e sicuramente al 90% ho venduto anche quello, mi tengo solo 430 e il resto ce l'ho mostriciato, ho voglia, ulla. Aspetta che ola, 1, 2, 3, 3, ola, che mi sto ascoltando. Già va bene. No, mi devo mettere l'eco, capito? Ah, è appena, che non ci sia molto reverbero, se no è brutta. Appena, come ho provato l'altra volta, no, Massimiliano. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola. Così va bene. Aspetta. Attenzione, binario 10, cambio. Hai la stessa modulazione del Galaxy con l'eco, uguale, precisa identica. Molto forte. Leggermente più forte del Galaxy, però va bene, bella, pulita, ordinata, non c'è reverbero, niente. Hola. Non riesco a ascoltarmi. C'è stato così, ti sto dicendo, appena un pelino abbassa, ma un pelino. Così, guarda. Hola. 1, 2, 3. Aspetta che mi devo ascoltare, perché sennò non riesco a regolare. Così va bene, ti ho detto, è uguale al Galaxy quando moduli con l'eco, la tua modulazione. Hola. 1, 2, 3. Hola. Hola. 1, 2, 3. Aspetta. Hola, 1, 2, 3. Aspetta, così è chiuso. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Appena sollevala, e poi ti dico io quando lasciarla e ti mando un audio, prova. Guarda così, 1, 2, 3, prova. Oh, lasciala così, stai fermo, che ti faccio parlare e ti mando un audio, aspetta. Parla Gianni. Attenzione Claudio, se ascolti il doppio rum, cambio, passo. Ascoltami, cazzo mi c'è vendisotto, meglio di così cosa vuoi? Scartata lei questa radio. Io mi ho messa all'angolo, sopra il pace. Mandami la foto, qua. Aspetta. Quella di sotto, sotto e sopra c'è il patch 2008, anzi 2003. Ah sì, l'avevo già vista questa qua. Così non mi piace assai, sinceramente. È semplice, non è che sia parola, è bellina. È bellina, dai. Non è male. È un 23 canali, molto semplice, tipo i leboni, così. Però è bella. Mezzo legno, mezzo ferro, già va bene, eh. e canali tutti ce li ha. Sì, sì, e allora, come dai? Nuova, nuova, mio, c'è un graffio, anche il legno, i fianchi sono in legno, molto bello. La casa è in ferro nero, non c'è un graffio, luce, luce, luce. Bella. Allucinante, cazzo. Sto guardando il taccuino. Ok, adesso cambio microfono, vediamo un po' se è colato il microfono, se mi fa la registrazione che mi voglio sentire. Ma questa va bene, ti sei ascoltato? Sì, sì, va benissimo, ti assolto. Beh, non dico che sabbia, se ti fa, va bene, va bene. Adesso tolgo l'eco di questo microfono e sto facendo con l'eco del baracchino. Prova a vedere, a registrarmi, a vedere come va. Quindi adesso cosa stai usando? Sempre il Cobra, come? Con il sabente, con l'eco Master Two. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, guarda a vedere come sta andando. Cioè guarda, ascolta, più che altro. Vedi tu, c'è uguale all'altra, non c'è qui, c'è un biscio. È un bel forte, va bene. Non va bene. Non va bene già. Cazzo, che la carta è troppo alta. Te l'ho detto, è un bel forte. Un bel, forte, va bene. Va bene, benissimo. Regolami il microfono, guarda, così è troppo alta secondo me. Abbassa un pelino. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così va benissimo. Allora lasciamo così, dai. Prova a parlare, ti mando un altro audio, così senti la differenza. Se non ti costa, sì. Vai, parla. Attenzione, Claudio Sparviero, se ascolti il doppio rondo a Sassari, Gambio. Ce l'ho qua a fianco il telefono, non cambia niente. Ascoltati, il primo e il secondo, guarda la differenza, per me va bene così. Non va bene. Va benissimo così, Claudio, lascio così, dai. E allora è un bel forte, il telefonino sfasa, però stai andando un bel forte. Adesso l'ha abbassata al minimo, va bene, lascialo stare così che va bene. Dai già, sentiamo tra una mezz'oretta, vado a farmi la barba, abbiamo una sistemata, e poi già sono in radio, dai, io già sto andando sempre bene, vedo che sta spingendo, ma sto tardando, già va bene. Andare qua, io sono qua, e io, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Gianni. il fatto che sono sempre da ascolto. C'ha pagato. E adesso mi sto controllando la cosa. Io mi sono fatto la babetta, mi sono seduto qua. Vabbè, poi me lo guardo, ma c'è uno schema che devo controllare il metro. Fai, già sono qua io già, non c'è problema a tapponarlo. No, mi rilasso, sono tutta la sera facendo spezzare, e quello, quell'altro, provando microfoni, facendo, vieni qua si tratta. Sto facendo ancora, mettendo a posto. No, sto guardando le stazionali, stavo controllando. Aspetta. Oh mia bella Madonnina! E chi è che sta dalla voce? Aspetta un attimo. Ok. Avanti, chi stava cantando? Stavo cantando io. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ma chi è? Antonio sempre a riserva. Avete parlato in due come al solito, no? E perché Gianni ci ha detto veloce? Appunto, sì, Antonio riserva, sempre a riserva. Sempre, sempre a riserva, perennemente. Riserva di Cadonna? E allora, sempre a riserva, io vado a casa, quindi benzina non ne poco mai. Mi sa che il denominativo te l'ha messo perché c'è preso sta benzina, così è. Ehi, ma non lo so perché io anche dalla 127 avevo un impianto a gas. Tutte le volte dicevo, ma sempre di riserva, sì. Oh, no, faccio! Hai finito però! Ma quando te ne sei qua, non faccio! Drogato! Anche io avevo un amico, che praticamente aveva la roba 75 Twin Spark, sempre la riserva, il categoria della macchina grossa era sempre la riserva. Ciao, si aggatto, come scendi male. Giappa giappa. Perché tu sei vicino, esce male, in lontananza esce bene. Avanti break. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Sentito la registrazione quando eri in campagna ero portati da paura, cazzo, sembro qua a Sassari. Va bene. Ottimo per la truppa. Avanti Gianni Opiorum, ripeti. Ciao Claudio, ben sentito, cordialità anche a te. Lo so, vabbè, lì quella campagna dove sei andato io la vedo praticamente, sono molto aperto. KK, poi a sentir Dio col portatile, arrivavi Santiago 5, perciò non c'è problema. Avanti, riserva. Sì, Roger, ciao Claudio, ben ascoltato, buonasera. Sì, no, sono contento, dai. Quegli sforzi piano piano sembra che stiano portando a qualcosa. Tu, cos'è butto? Linea del grosso. Linea del grosso? Una parolona, No, già stai scendo più forte adesso. No, sono infatti dall'apparato. Ciao Luca, avanti. Questo è il capo, quello rientrato, attento. 9:20 sei qua. Sì, mi hai preso, Cla. Dove la fai? Sì, già, un attimino, sono arrivato adesso, cosa di Marina. Mi devo preparare la pizza. Ma ascolta, quindi lui cosa ti ha detto? Non te l'ha detto se praticamente ne sta cercando un altro o cosa? Non ti ha detto niente a tu? Sì, lui mi aveva telefonato a me l'incombe, nel senso che lui mi aveva detto a me cercamene un altro, e gli ho detto vabbè, allora nel frattempo ti lascio questo, tanto io comunque non lo stavo usando. Però poi che ho smantellato l'altro, che l'ho smembrato, che l'ho venduto a pezzi, gli ho detto ascolta, a me mi serve però la radio, cosa fai? E dice ma io non li voglio spendere quella cifra. Gli ho detto ascolta, cercatene qualcuna tu, ce n'è qualcuno, ho visto a quel prezzo, gli ho dato i contatti, io sono di Bussufa. No, ma io quel prezzo non gli ha dato la mia, mamma qui si ammazza, non ho bisogno di barattare con nessuno, io posso fare un'eccezione, quella che, l'ho, che ho pagato la no, ma rimetterci no, basta, e cazzo, sembro l'unico imbecille di turno, assolutamente, se poi la devo regalare, questi sono problemi miei, la posso anche regalare, ma capito, no, non mi devo mettere a barattare con la gente, ma cosa, ma cosa c'è, buco marciante, a me mi dai quello, se la vuoi è così, se non la vuoi lascia la strada.